chiamando Domenico. Aspetta un attimo, no, mi batto un bacco, ti sento, mi senti? Sento un bacio, però lo capisco. Beh, spera, ti faccio l'appunto io, cosa stai dicendo? Guarda, sento questo fratello, stai prendendo, poi mi arrivano questi picchi a 9:10 e ti interrompo la trasmissione. Il segnale è 6:7, sei buono, però sento questo trasportante, non so cosa sia, è qualcuno che sta facendo degli iscritti. Ci vede che la sento solo io, Luca, adesso è 9:20. Oh, non la sento io, vuol dire che qualcuno, qualche portante lì vicino a te. Me lo metto. Ho capito, ragazzi di Guerrero. Ah, ma indietro Guerrero, me lo intendo accidenti. Guarda, volevo dire il ruolo del Guerrero, perché ho messo lo squarci. Mamma mia, fastidio, questa ma proprio di noi non sei in mezzo, eh. Lo so, no, questo è un bel tosta, eh. Ma Gianni, ci è arrivato a casa? Penso di sì, là. Perché a me mi hanno attaccato, si è attaccato il salvavita, ma nel frattempo sono andato a tirare. Vediamo se torna a scattare. Dopo che sono stati i coso, il fusibile della centrale elettrica dell'Enel, mi sa. Ma con cosa lo stai alimentando quel gas? Qual è questo? Chi cos'è che lo sta aiutando? Questo è 110, 220 110. No, parlo di aiuto di altre cose. Questo qua, e questo è quello grande, 220, là. Ma quello, ma c'è quello di Aizu, quello di Aizu? No, non bevo 131 questo, è giusto per darle un centinaio di watt, c'è 8 watt questa radio, capito? In città va bene, ma magari fuori già arrivo lo stesso, non me la futti nulla, ma è giusto per darle qualcosa in più, capito? Che cosa blu drupo, in realtà, adesso che mi stai facendo capotare il coso, lo smith. Aspetta, lo stacchiamo, tanto non serve a niente. Ci sentiamo lo stesso. Era giusto per fare la prova. Io se attacco il pazzo a te ti devo attenuare tutto quello che fai, se no non riesco a sentirti, perché arrivi talmente forte, così anche Antonello un pugno. Quando col pazzo c'ha il difetto che i segnali troppo furti li scompaiono, devo per forza chiudere tutto le repeghe. Poi con questo non ci sarà bisogno. Ho detto che da neanche 8 watt, cosa? 7 watt, modulati, modulati buoni. Se con il 131 sale a metà, non ce la fa manco a portare il 131, fate il conto. Immaginate se attacco quello grande, allora il 911 della Kenwood, cosa le fa? Manco lui in città, vedi? Adesso c'è gente che sta chiamando, avanti chi è? Ciao B2, ben sentito, ti rilancio a Claudio, autore di controllo, avanti Claudio. Sì, autore di controllo, sì. Io sono con pochi watt, già arrivo a basso lui, non so manco se mi sente. Mi senti B2? È un po' bassino, ti ascolto io, ma è colpa mia perché sto usando una radio di quelle talmente vecchie che non sapevo neanche se funzionava, capito? Sì, ciao B2, ben sentito. C'è anche Luca, vediamo se lo ascolti. Luca, avanti per B2. Sì, pronto. Pronto, parli e dica. Allora, il telefono, sì. Oh, B2, mi senti? No, lo sento. B2, Eugenio, lo senti a Luca? Allucinati, 9.10, 9.15, sta arrivando quasi Santiago 7, B2 qua, dalle mie parti. Sassari, zona Piazza Lessini, zona stadio, dai. adesso già facciamo un po' più di radio, dai. Già lo teniamo attivo questo canale 10. Ecco, fa di qua. Come? Allora, piano piano. Beh, raga, a me mi hanno chiamato davvero adesso, vi lascio e ci sentiamo semmai dopo, se ci siete. Buona serata a tutti. Mi sembra c'è un break. Avanti il break e da parte mia guarda il tango, KK. Ciao, buon appetito. Oh, ciao Giovanni, tu esessi. Ciao, ciao, ciao, vado a mangiare che mi ha già chiamato tre volte. Prima mi ha detto, ma era pronto, come sei pronto? Ti lascio in compagnia di Roberto Quadrato, poi c'è B2 a Porto Torres, non so se lo senti, e Lugariello. Vai tu per chi vuoi, Giovanni, ci sentiamo dopo. Bene, bene, l'appetito e buona digestione pure se non entri. E se entri, siamo qua. E sapete, Luca. Ciao, Giovanni. Mi rientrando da fare shopping, compreso, rientrando da fare shopping in giro per il mondo. E io niente shopping restando. Ma nemmeno la Uppi. Dai, mi ha detto 10 minuti e arrivo subito. Dai, siamo di no, Robe. E beh, John va, tutto a posto. E beh. Mi ho terminato la stasera a lavorare, poi parruccheria, cosmetici, capelli, sono risalito e un po' di shopping. In giro così, con le femmine. Ma stai arrivando a 9:20, ma aiutando ti stai o con pulita? No, aiutato. Sono con il faccio. 50 watt in questo momento circa là. 45, 47 là. Diciamola così. No, ma anche ti sento molto bene. Dammi un controllo anche a me, perché ho questi picchi, non capisco se ho problemi di antenna io o qualcosa, buh, strano. Sicuramente verso il 9:20, 9:15 là. E allora già sta andando bene, perché io ho dei picchi che arrivano a 9:10, 9:15 di una tipo una portantina, una cosa strana, buh. Però è sequenziale, cioè ogni tanto tu come che sia qualcuno che manda, però è determinata, cioè non è così a mano freddo. Infatti il primo momento pensavo fosse una portata, tipo un disturbo quando tu accendi un neon in una stanza, una cosa del genere, però è continua. Boh, non sto sentendo niente, io l'ho squarcicchiato, e se i segnali non sono 9:10, 9:20, non passa nessuno. Un attimino che c'è una chiamata, riprendi Luca. Mi ha sentato un attimo. B2. Buonasera, io ho un po' di QRM qua, S56, comunque ti riesco a tirarti fuori, caro B2, dove ti trovi? Tipo quando c'è un temporale, cioè presente, però è un rumore tipo quando accendi un neon, una cosa del genere, tu arriva sempre a sequenza, così, a fare la sequenza, sequenziale, tu non fare così, o c'è qualcuno che si sta divertendo con qualche apparato portatile, cosa del genere, vicino. Infatti, quando schiaccia questo segnale, copre la cosa, come si chiama questo di giù, di portatore, che a lui arriva a 7. No, boh, sarà la fine del mondo, forse sono i Maglia che stanno mandando messaggi, capito? No, già va bene così. Sì, esperimenti nuovi in radiocomunicazione, cosa propone di nuovo? Allora, sto realizzando un apparato che non ti posso dire, per uso elettromedicale molto particolare, che credo di riuscire a realizzarlo. Basta, mi fermo qua perché non ti posso dire altro. Una cosa molto importante, innovativa al massimo, sto cercando di farle dare frutti, se ci riesco. Ovviamente si tratta di impegnarmi, sto progettando tutte le parti che occorrono per la realizzazione e poi la lancerò in campo elettromedicale, spero sia un successo. Allora vediamo. Cosa ti volevo dire? Poi il campo microfonico, l'hai provato, l'altro giorno c'avevi dei microfoni, cosa stai facendo? Allora, solitamente uso i miei pre che utilizzo in BF Hi-Fi, roba Hi-Fi, sto utilizzando il TL082 e poi sto provando varie configurazioni circuitali a 2-3 transistor contro reazionati in continua, in alternata e contro la temperatura, ovviamente, anche quella è una cosa bellina, da abbinare a vari tipi di ricetrasmettitori e così via, ma soprattutto li realizzo per l'Hi-Fi, anche perché i ricetrasmettitori insomma sarebbe uno spreco. E comunque a livello di lavoro sto realizzando dei software per frequenzimetri, ne ho già fatto più di uno, ne ho uno a 5 cifre e uno a 7 con la possibilità di sommare sopra, quindi un frequenzimetro sommatore sopra l'attore, un altro lo stesso a lettura diretta a 5 cifre, utilissimo per poter collegare a questi tipi di apparati, appunto, dove lo zero insomma poco importanza, giusto per sapere la frequenza, ad altissima sensibilità. Io ho un amico che è grande appassionato di Hi-Fi, questo c'ha un museo di roba, me lo sto arrucchiando per un Macintosh, per un pre-Macintosh, però parliamo degli anni, fine anni 70, vecchia concezione, però bellino, molto bello. I pre-Macintosh erano molto belli, anche i Rogers erano belli, avevano pre-finale collegati e suonavano da Dio. E poi le darai una ristrutturata, ti cambierai i componenti, quei componenti feticisti che mettevano prima, ti metti i componenti seri, altro isolamento e sei a posto. Sostituire almeno i condensatori, così sicuramente dopo tanti anni verranno buttati giù. No, guarda, questo lavoro l'ha fatto questo laboratorio di Milano specializzato in Macintosh, l'ha fatto lui qualche anno fa, dice, hanno fatto tutto un lavoro di ricostituzione. Allora bene, perfetto, allora va molto bene, non c'è problema. E il laboratorio Macintosh mica reinventa l'elettronica, non reinventa niente. Casomai metteranno i componenti da feticista, come dico io, cioè dando all'originale, facendo pagare un sacco di soldi, eccetera. No, dice che fanno dei lavoretti di miglioramento, perché c'hanno qualche difettuccio, c'erano anche loro. Non lo vorrebbe dare, ti dico, ma basta, l'elenco della roba che sta vendendo, c'ha una marea di roba, dai giradischi, amplificazione, casse, eccetera, eccetera. Quelli, però c'ha delle parti, tipo questo Macintosh Supreme, anche se non lo sta utilizzando, mi ha detto c'ha un amplificatorino integrato monitor, addirittura, non lo sapevo neanche quello. E più c'ha il Mac Levison di pre e finale, però ha detto quelli guai a toccarli. E poi ha detto via i Rogers, che dice erano spettacolari. E i Rogers erano dei bei apparati, eh? Dice, li ha fatti sentire da questo amico suo, che non so quanto aveva speso per farsi l'impianto, li ha messo vicino, si è messo a piangere quando li ha sentiti, dice, ci ha buttato i soldi. Cioè stiamo parlando di apparati seri, ma stiamo parlando di mondezze, no? Alla cinese, altre dimensioni, altri apparati, è tutto un altro mondo. Un po' come mettere Gesù Cristo con un cavolfiore. E poi c'ha chi interessa, quello può essere anche un affare, stanno 600 euro la coppia pre finale della Quad. ce ne sono belli. Ma B2 l'abbiamo lasciato in bianco, B2? No, ha chiuso B2. Ah, chiuso, sì, perché non riuscivo a sentirlo, appunto. E c'era anche Luca, vediamo, c'è entrato Luca. Io sento questo piccolino, anche un attimino di bianco e vediamo un pochettino. Avanti, chi vuole entrare su 10? Oh, no, non sento niente, io riprendo. E questo che sta parlando? Aspetta, scusa un attimino, provo a rilanciarlo un attimo. Avanti, 10. No, c'è nessuno, ho capito. No, e beh, i Roger sono comunque dei bellissimi apparattini, solo che ripeto, hanno troppa componentistica vecchia, che secondo me andrebbe aggiornata con altra di ultima carattura, ecco. Naturalmente senza andare a sconfinare nell'impossibile, ecco. Sì, no, vabbè, diciamo, c'è sempre qualcosa di meglio, però diciamo quelli sono veri vecchi amplificatori che andavano benissimo. Ma questo c'ha tanta di quella roba, c'ha, è un collezionista questo, c'ha decine e decine di apparati, ma nuovi scatolati, no? Lui, cioè, alla fine dico, ma cosa teneva? Per dire, di Giradischi mi ha portato un elenco, di Torres ne ha tutta la serie, dai TD 125 fino a 160, con braccio non so che tipo, tutti una serie di bracci, testine, cioè una cosa allucinante, sono stato, non ho visto tutto, ma ho visto quelli della micro, quelli con quel motore separato, ne ha 5 di quelli, per dirti che tipo è quello. È un collezionista allucinante, di dischi ne ha migliaia, è una cosa da paura. Infatti ho detto, ma cosa te ne fai? Perché uno, cioè no, io sono appassionato, ci ho buttato centinaia di milioni di vecchie lire, dice, in questi apparati, perché lui prima aveva un negozio, era socio in un negozio di alta fedeltà, poi ha mollato tutto, lui comprava per fare una specie di museo in casa, però poi alla fine si è reso conto. Adesso un po' di roba la sta andando via, si è tenuto qualche cosa, tipo i McLevison, il prefinale, le casse, c'ha quelle grosse della, da noi, si è tenuto, e le, aspetta come si chiamano le altre, le B&W, quelle grandi con le, che stanno un metro e mezzo di cassa, quelle sono buone, però queste se le tiene detto perché, e le quad c'ha ancora, forse le vuol vendere. Vabbè, poi erano dei pezzi eccezionali, le BV Matrix, specialmente quelle che avevano la forma dell'orecchio, del lobo, lobo dell'orecchio umano, appunto. E poi c'erano le Tannoy, vabbè, le Edinburgh, che erano eccezionali, le Quad comunque, che sono delle elettrostatiche ottime, ma hanno fatto delle belle cose ai tempi, stiamo parlando sempre di roba di qualità e non di bidoni. Sì, lui stava, mi quale sono preso quello da caso, ho provato quello che mi ha dato, cioè le BMW, le DM70, figurati, le sta vendendo quelle lì, 3.000 euro usate, che dice che nel mercato valgono intorno ai 5.000 euro, poi c'ha le DMC, quelle da 1.000 euro, poi c'ha le Tannoy Super Red Monitor 12 pollici, quelle 2.000 euro, e poi c'ha le R2X, tutti quelli in balli e quelli stand originali, e poi che le ho avute anche io, però lui c'ha la versione più piccola delle mie, le Jensen elettrostatiche col sub sotto e il pannello elettrostatico sopra. Io ho avuto quelle più grosse delle sue, cioè non sono spettacolari, queste le sta vendendo quasi a regalo, 250 euro perché c'è il mobile un po' rovinato, però chi le prende ha delle buone casse. Niente da dire, che apparati del genere sono infallibili. No, lì chi compra bene, non c'è ombra di dubbio. Ma guarda, poi il fatto di riempirsi la casa di questi apparati è una cosa che non serve a nulla, no, assolutissimamente. Un conto è che ti realizzi un tuo impianto, perché è una tua realizzazione. Un conto è che invece fondamentalmente vai a comprare per fare un museo. Quello va bene per uno che ha una villa enorme, acchiappa e ci mette 150 metri quadri di esposizione, ma chi lo se lo può permettere? Anche in una casa normale da 200 metri quadri, non è cavipiri, no? In casi tutto, troppa roba, perché poi sono ingombranti, ma a prescindere sono dei bellissimi apparati, se proprio metà noi, teatro Edinburgh, erano dei demoni, del clip shorn, lo stesso, hanno fatto epoca. Sì, sì, no. Lui è poi roba fino agli anni 80, non oltre, non c'ha niente di, cioè, di vecchia generazione di amplificazione valvolare e cose del genere, non è roba moderna assolutamente, neanche a fargliene vedere. Lui ha acquistato tutto il materiale di vecchia, di cosa, cioè addirittura questo Philips valvolare, per le Philips non lo conosce nessuno questo coso, non Philips, scusa, Omission, amplificatore con alimentazione a batteria, un'edizione speciale che ne hanno fatto pochissimi nel mondo, il pre-finale a batteria, alimentato a batteria, quello stanno 1500 euro proprio da fanatici della cassa emission, non so se li conosci, di applicatori. Sì, molto bene. Beh, lo fece anche la Technics in un pre, lo fece anche la Technics, sì, con la storia che l'alimentazione da rete poi generava rumore, anche se ben stabilizzata. Insomma, beh, la tensione di batteria è tensione di batteria, ma quello si tratta di andare sul feticismo, quello lo fa chi ha molto tempo da perdere e chi ha molti soldi da buttare via, ma uno che vuole ascoltarsi un po' di musica decente, basta e avanza un pre finale a valvole con casse acustiche tipo Clipion. Siamo alle stelle, siamo alle stelle. Poi naturalmente ci sono anche altri tipi di impianti marche eccezionali, sempre a valvole, di tutte le maniere. Cosa metto di casse, le Clipson, così hai detto? Sì, le Clipson, sono quelle casse caricate a tromba posteriore. No, le conosco benino, io sono fanatico delle Clipson. Uno, vabbè, non uno dei pochi, chi le ha prese sa di cosa stiamo parlando. Le Clipson io le ho sempre tenute ai massimi livelli, perché erano le casse in assoluto con la più alta efficienza, caricate a tromba, labirinto. Le usavano me, forse a Ussi, non so se sei mai andato tu a Blue Star, c'erano le Clipson come amplificazione, cioè come casse acustiche, erano allucinanti. Sì, però non sono casse da discoteca, sinceramente. Magari saranno state una versione, quelle, aspetta, come Utopia, quelle lì, quella era una versione per discoteca, poi quelle ad altissimo rendimento, altissima sensibilità, non sono casse da collegare assolutissimamente a un bipolare adrenalinico da sala operatoria, sono casse acustiche da collegare a amplificatori seri con le contropalle e che tirino fuori veramente grinta. E via, io con i miei 6 watt ci faccio la festa, nonno. Sono indemoniati gli ampli a valvole, hanno una compressione sonora diversa, i watt sono gli stessi, però è il modo di comprimere e comprimere le molecole dell'aria appunto che porta a un risultato sonoro diverso, cioè più musicalità, e quindi di conseguenza, se vogliamo chiamarla più potenza, va bene, ma pressione acustica è la definizione migliore. Ma tu perché c'hai le Clipson della Clipson? No, io le mie che sono realizzate, diciamo così, sono caricate appunto, caricate veramente al bass reflex sulla parte anteriore, e sono molto grandi, hanno un colore 25 biconico e poi sono rifinite con un midi basso sopra la bocca del canale di accordo, della finestra d'accordo, e un tweeter all'interno di questa seconda cassa, e lavorano a 16 ohm in serie. È molto particolare la configurazione, molto ben suonante. E che componenti stai utilizzando? Cioè hai utilizzato? Ho messo, allora, come componentista, come sociale, il bicono, poi ho messo il midi basso della sociale modificato su un rollo di frequenza speciale, cioè su un punto speciale appunto di intervento dove il cono va appunto a tagliare, e un tweeter che riprende le Roger Studio, le S3A, il tweeter è quello lì, è quella configurazione lì, praticamente ha il filtro che è alto di impedenza e lavora al centro delle due casse, capisci? Sono collegati in serie, lui lavora al centro, e il caricamento della cassa superiore, che possiamo chiamarlo un filtro di quarto grado, quarto livello. Tu hai messo in serie i componenti per arrivare a 16 ohm, così hai fatto? Messo in serie, è chiaro, no? Lavorano in serie e poi c'è la ripartizione ovviamente dei vettori alternati, dove appunto si va in equo, no? Per ogni casa, e si lavora naturalmente tramite le pressioni sonore, tutto bilanciato. Il suono è una cosa spaziale, bellissimo, molto molto ben definito sul piano sonoro giusto ovviamente. Il mid basso è stato modificato per lavorare con il bicono, che è già un mid basso appunto, ma in modo particolare, quindi rinforza più il basso che il medio. Il medio è molto allucito sulla cassa superiore, una cassa chiusa a sospensione pneumatica, quindi addolcisce anche appunto quello che era l'aspro del bicono, ma in un valvolare non si sente. No, cioè sono considerati altoparlanti economici, ma io ho visto dei bei progetti da lanciare e ti posso dire vanno più che bene. Poi configurati come le hai fatti tu è ancora meglio. Poi naturalmente le ha dato quel lavoro, fare lavorare a 16 ombre amplificato sicuramente hanno una resa molto, molto migliore, magari non a livello di prestazione, però come acustica probabilmente vanno anche molto meglio. Il discorso il roll off e poi anche diciamo così che il fattore di smorzolamento è diverso a 16 ohm, perché in un trasformatore di uscita buono, io uso solo la madinusa della Stanco ovviamente, parlo sempre della Stanco, trattasi di apparati particolari, no? Non, se hai un indirizzo email ti mando il link. Dimmi, scusa, non ho capito se di stai parlando, perché mi sono entrato un attimino, hai detto se c'è un indirizzo email. Sì, ti mando il link. Vabbè, qua per radio non è che mi piace molto, dai, cioè avremo modo di conoscerci di persona. Io mi sono sempre promesso un giorno di salire dalle tue parti e vedere un pochettino le tue cose, i tuoi progetti, le tue opere. Vabbè, ma c'è anche il sito, lo puoi vedere anche lì. Non c'è ombra di dubbio. C'è il sito dove appunto ci sono anche dei brevetti, ci sono dei test match per valvole digitali, unici al mondo, anche perché non esisteva ancora un test match che si potesse veramente vedere l'assorbimento o la tensione, la corrente appunto per poter calcolare la curva o per poter vedere addirittura immediatamente le valvole e poter fare lì il test match a coppie oppure singola, anche di preamplificatori. È bestiale quel test match, è bestiale, molto molto molto bello, molto bello. Quello è stato uno dei tanti lavori molto molto ambiti, poi da certi molto ambiti, perché alla fine tutti hanno voluto realizzarselo. In effetti c'è stato uno che è il capogruppo, diciamo, di questi molto appassionati, che mi ha chiesto l'autorizzazione, va bene, gli ho dato schema di prego tutto, se lo stanno facendo per uso personale, si intende, è diventato famoso. Quel test match è passato alla storia, è l'unico test match per valvole esistente al mondo, l'unico. Gli altri, quelli che vendono, a onore del vero, hanno solo rilevamento della corrente di catodo, ma non serve a nulla. E la tensione anodica com'è? E sul carico come si comporta la valvola, capisci? È inutile tirarla fuori e metterlo su un prova valvole. Non serve a nulla, non risolvi nulla. Invece qui a bordo dell'ampli vedi tensioni e correnti. E da lì ti calcoli tutto. Anzi, senza far niente, le vuoi campionare, le trovi che assorbono allo stesso modo. E che le tensioni siano in quel piano e sono uguali, sono campionate. Dimmi un po', l'amplificatore è stato autocostruito, però totalmente a valvole o ibrido? No, totalmente a valvole. L'ho dovuto anche realizzare perché poi chi mi ha fornito i componenti appunto mi ha chiesto di fare quel tipo di lavoro. No, quelli sono progetti, sono lo schema, ovviamente Williamson, però ho modificato nelle parti, gli schemi sono miei, e sono miei, parlo solo miei, perché sono miei, perché non sono copiati da nessuno, io i papafattisti li odio, e niente, e ho messo su un sistema che è una bomba, c'è il preamplificatore, il pre praticamente addirittura anche un casco ha un casco alla sezione d'ingresso che poi è controreazionato per la sezione cassetta e CD, ma per quanto riguarda il giradischi appunto ha un guadagno allucinante, come sono bellissimo, e poi ha l'equalizzatore Baxandela appunto a due stadi alti bassi, intervento degli alti sui 10 kHz circa, bassi da 70 a 100 Hz. Adesso è già 13 anni che l'ho realizzato. Molto molto bello, molto ben suonante e ben riuscito. Almeno, è un 4 telai, quindi utilizza i trasformatori di alimentazione separati dal telaio appunto dove c'è il pre alimentato dagli stessi alimentatori, doppio bigrecco con sezione a bobina, molto ben filtrato, silenziosissimo. una piccola perla, ecco, fatto bene, ripeto, e non c'è niente da dire, almeno sinora ha sempre funzionato da Dio, 13 anni che ne ha messo mai mano, boh. Vabbè, diciamo, un progetto delle valvole non è uno scherzo, soprattutto il discorso di alimentazione, perché fare un circuito molti ci riescono, però il filtraggio e tutta la cosa, il discorso di alimentazione è una cosa molto, ma molto delicata, perché la valvola, io sono fanatico delle valvole, però per avere un suono di un certo livello devi spendere soldi e fare alimentazione separata, eccetera, eccetera, se no a quel punto è preferibile il transistor, cioè più sicuro e tutto. A punto è preferibile? Il transistor, vai col transistor, con il MOSFET e diciamo c'hai un suono molto più, con più dinamica, eccetera, eccetera, tutto dipende naturalmente da cosa devi fare, cosa devi ascoltare. Siete accontenti di avere poca potenza con delle casse efficienti, bastano anche pochi watt, però secondo cosa devi fare non ti puoi permettere mai neanche di acquistare quelle casse ad alta efficienza, perché questa non è un'esorbità. Allora, il suono sicuramente non c'è paragone, stiamo parlando di Gesù Cristo e un cavolfiore. Tu prendi un 6 watt transistor, si scureggia, si fiscia, pastrocchia, pastognazza e spernacchia dappertutto. Cosa fa un 6 watt transistor? Proprio la potenza della parola. Non c'è tensione, non c'è escursione di tensione, non c'è pressione sonora, non serve. Il cono vibra, non riproduce niente, è una porcheria, tutta porcheria, lo puoi mettere dove vuoi, anzi se c'è una cassa a alto rendimento ne senti di scureggi. No, stiamo parlando di configurazioni particolari, è il caso di ascoltarli più che di parlare, che gli strumenti soprattutto rispondono molto bene, quindi già parlano sulla strumentazione, pensa più in pratica. Giustamente bisogna calcolare anche i watt di picco, ma come RMS 7-8 per canale, e i dual mono così hanno una diafonia allucinante. Allora, io ti do ragione, le valvole sono estimatore, cioè pienamente d'accordo, però il limite delle valvole è quando inizia a sollevare, quando inizia a tirargli un pochettino il collo, a quel punto lì si scoprono tutti gli altarini. Già è vero, e tu li hai mai sentiti per poterne parlare. Lo sai, allora questo è un discorso che fanno quelli che non hanno mai ascoltato veramente gli amplificatori che hanno un decadimento armonico regolare. Il decadimento armonico è difficilissimo da ottenere, anche perché si gioca su un'ista di triodo pendolo onde poter appunto fare in modo che la terza armonica, ovvero quello che rimane, sia ben aggiustata. Ne parleremo un altro giorno, però ti posso garantire che non c'è paragone agli amplificatori a transistor. Io ne ho qui da 70, da 100 watt, lasciamo correre là, non è il caso neanche di parlare. Io il mio progetto, ovviamente, per poterlo portare a quel punto ci ho studiato ben su, ti ho visto bene cosa dovevo fare, tant'è vero che è un suono, che è uno spettacolo, più sollevi più va bene, ecco qua, ma stiamo parlando di materiali stanco, roba americana, stiamo parlando di 16 ohm di adattamento in 30, stiamo parlando di casse acustiche studiate appositamente per quel tipo di finale, se mi dici che costa farlo sì, però poi non lo butti più, invece di quelli a transistor ne ho visto una marea bruciata, con questo ci faccio una serata, tranquillamente, capacissimo di collegarlo ad alcuni da 500 watt, sai di quelli da 38, lo acchiappo, lo sbatto così sopra, lo porto in piazza e suona benissimo, altro che limiti, ed è un giocattolino, 7-10 watt dovrebbero essere un giocattolino, ma non è così, perché un conto è utilizzare tutta la potenza disponibile per pilotare il cono e avere il massimo rendimento, un conto è su 100 watt poterne utilizzare solo 20, perché poi tutto il resto è mondetta. Il problema è anche quello. Naturalmente stiamo parlando di casi particolari, di certi tipi di costruzioni, io parlo mediamente, mi sto riferendo a un prodotto medio, ho visto tante porcherie a valvole che le hanno paragonate in osso galloso, a pulisenti ed è una delusione, io ho sentito anche classe A a valvole e ti posso dire che sono stato deluso. Per certi versi sì, mi è piaciuta la voce, gli strumenti eccetera eccetera, però per certe altre cose come dinamica, spazialità l'ho visto molto molto deludente la questione. Sì, perché quando non utilizzano i trasformatori di uscita che devono utilizzare, suonano molto peggio di quelli a transistor, ma questo è risaputo, l'ho capito benissimo, allora l'intento l'intento del mio progetto era proprio quello, tirare fuori una macchina che fosse, che si potesse utilizzare, non tirare fuori un apparato che non serve a nulla, tirare fuori una macchina da musica, queste sono macchine da musica, è inutile che uno parli, canti, cianfari, bisogna ascoltare, prima bisogna ascoltare, per farsi un giudizio bisogna ascoltare, non c'è niente da fare. Questi pompano a tutt'andare, hanno un suono brillante, hanno un'ottima resa sonora, beh, non è un amplificatore da discoteca, però stai tranquillo che per un locale da 70-100 metri quadri va benissimo. Sì, sì, no, sto criticando, però dico, molte volte ho avuto delle delusioni ascoltando amplificatori di certi livelli e di certi costi. Altre cose più economiche, a transito ho avuto delle rese, diciamo, acustiche superiori. Poi mi dirai c'è esattamente il contrario, però per esperienza mia tu mi dirai, ma il tuo suonerà molto meglio, non lo so, non ho avuto piacere ascoltarlo. Però io ho ascoltato delle valvole e ho avuto delle grossissime delusioni, più di uno ha ascoltato di amplificatori. Adesso, vorrei sentire questo Macintosh, questo pre con un amplificatore integrato piccolino monitor da 6-7 watt, volevo avere piacere di ascoltarlo, però c'è un sacco di regolazioni, un sacco di cose, volevo capire anche, perché un vecchio Macintosh di vecchia generazione non è i nuovi che stanno facendo. Guarda, ti posso garantire che sono apparati seri, i Macintosh sono delle ottime, ottimissime fatture, ottimissimi apparati. E cosa li vuoi dire a Macintosh? Che non li sanno fare, mi viene da ridere. No, vai tranquillo che rimarrai sorpreso. No, il discorso è questo, intanto il mio è un pull in classe A1, ma non è un classe A che si richiude così il segnale sul trasformatore. Non funziona così, non è una cosa molto particolare, è comunque un push pull che a dire semplice, però il controfase è parallelo, praticamente ha quattro valvole su due per ogni ramo, due appunto per la sinusoide superiore e per la sinusoide inferiore. Sai che in un push pull viene ricostruita, la sinusoide viene sommata appunto vettorialmente, così per quanto riguarda diciamo così i vettori alternati, quindi le coppie sono fatte così, l'impedenza è ben adattata e ti dico che il suono è eccezionale, bello, brillante, ma veramente è con un'ottima dinamica soprattutto, questo è il bello, non ti delude mai, un suono che non ti stanca, un suono che più tiri più ce n'è, questo è il bello. E giù in basso indipendenza quanto riesce a scendere questo? Sempre, siamo sempre sui 16 ohm, questa praticamente giù quel tipo di coni arriva mi pare 18-20 e lì che tira come un demonio, no, non teme nulla, non il basso è bello profondo, ben articolato, non c'è quel poco di questi amplificatori in classe A con una valvolina lì, no. Questo malasorte si difende benissimo fronte anche a apparati multimilionari a transistor, lascia stare. Però per fare una configurazione così cosa ci vuole? Il punto di domanda è questo, non è un amplificatore commerciale, sognarselo in kit una cosa così sarebbe solo sognarselo. Adesso si bisogna studiare bene i circuiti, capirli eccetera eccetera, non è campo mio, io sono solo appassionato dall'esterno, non all'interno dei circuiti, diciamo posso soltanto dare un parere da appassionato, diciamo ascoltandola, diciamo quello posso dire la mia, diciamo l'orecchio ce l'ho abbastanza abituato, confronto a molta gente che gli piace sentire il rumore, però l'altra realtà non sa neanche cosa sia, infatti molta gente l'ho fatta conoscere io a casa mia nel piccolo modesto impianto, ho detto questa si avvicina all'alta fedeltà, non è ancora il tocco di quanto potrei volere perché c'è sempre molto ma molto meglio, però si avvicina alla vera qualità, diciamo, della realtà, di quello dell'ascolto dello strumento in realtà, ma soprattutto la voce che non ti inganna, quando ascolti una voce umana un amplificatore ti dice se riesci a valutare la qualità di un amplificatore dalla voce umana. Beh, di sicuro con il pianoforte nel mio si sente ottimamente, la voce umana è veramente una cosa incredibile da ascoltare, ma tutti gli strumenti comunque con la musica rock con il Metallica, con tutto quello che vuoi, si comporta benissimo, musica classica non la parliamo, insomma in tutti i modi va bene, quindi è azzeccato. È azzeccato sia l'ampli sia il tipo di casse acustiche. Non c'è niente da fare, per amplificatore puoi fare il resto. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, provate tutte le salse, pompa, punto e basta. Pompa, punto e basta, io l'ho sempre detto. Anche perché non me ne avrei fatto nulla di un apparato da feticisti. Io li chiamo feticisti, quelli che stanno lì a ascoltare quartetti e terzetti di opere di merda, e stanno lì giorno e notte con le vecchie da pipistrello, facendo così ascolti da avere poi pecchecche, ma va a far culo, va. Io quelli non li posso vedere. Io quando faccio un ampli deve lavorare, e lo sanno, nel gruppo mio lo sanno che io lavoro così, non c'è niente da fare, io sono come, cosa posso dire, di quelle persone, no, che se una cosa non serve a nulla, non ne faccio, non me ne faccio niente, deve lavorare, boh, io quando ne faccio un apparato lo voglio ascoltare, ma lo voglio sentire veramente che tiri, non solo nella fantasia, perché poi moltissimi di questi che si dichiarano autocostruttori sono dei perfetti somari, no? Che vanno lì a rompere i coglioni al mercato dell'hi-fi e sono quelli che hanno distrutto tutto poi. Allora, non so se ti ho raccontato una storiella, forse altre no, però qua in frequenza l'ho raccontato. Questo amico mio ha un negozio qua a Sassari, è abbastanza conosciuto, probabilmente è l'unico che vende roba di pregio, diciamo, è specialista su questo della tapperezza. Dice, è venuto questo signore, talmente era baccato, veramente baccato, mi ha fatto sentire un impianto di un certo livello, con delle casse, con delle clips tra l'altro. Generazione, stava ascoltando, ma queste non fanno, queste gli mancano i medi, tutto quanto, dice, ma scusi, gli mancano i medi, ma come fa? No, le casse mie fanno un suono, il medio glielo dà diverso, queste secondo me hanno un difetto sulle tonalità medie, ma sta scherzando, stiamo parlando di casse clips, costavano diverse migliaia di euro queste casse. E alla fine ha detto, mi faccia una cortesia, allora faccio un controllo audiometrico, ha controllato che c'aveva una carenza di frequenze acute, dai medi agli acuti, e qui c'aveva un problema ad udito, e questo qua era convinto che di non sentire i medi nella casa, ma era l'orecchio solo che sentivo. Cazzo, che non sente i medi delle clips è sordo totalmente, diffuso proprio, poi capisco che non abbia un difetto qui, ma quello è, non deve neanche dirne. A parte che si vede già dalla struttura, quindi è spaventosa solo la struttura, figurati se uno può anche va a criticare una picture, ma no, non esiste. Te lo sto dicendo, per questo qua, e poi forse a casa sua lui si esaltava le tonalità acute, non lo so, perché c'è gente che usa il controllo di tono ancora negli impianti di alta fedeltà. Io a casa mia, diciamo, ascolto con delle casse discrete, non dico se hanno il topo, però delle buone casse, è tutto flat, posizione neutra, non ne utilizzo il controllo di tono. Se dovessi utilizzare il controllo di tono addirittura diretto, io c'ho attacco diretto direttamente dall'amplificatore, senza nessun controllo di passaggi intermedi, diciamo, va direttamente l'uscita della digitale l'attacco diretto. Direttamente all'amplificatore, senza nessuna troppo passaggio, direttamente alle casse, proprio per eliminare tutte le imperfezioni. Sì, però tieni presente una cosa, i controlli di tono non vanno temuti quando tu compri un preamplificatore dove il suono fa il giro della terra, non serve a niente, così si riempie di rumori, di frusci, di bordelli, casini vari. Io sto parlando del mio che fa 2 cm, 3 cm il suono e poi va verso l'ampli con un semplice cavetto schermato, ma stiamo parlando di preamplificatori delicati, di torno a picche, è un prevalvolare di quella qualità, o te lo fai o altrimenti manco se lo compri a volte. Tutto lì, percorsi cortissimi, studiato al massimo della perfezione, che non si girano lì, rumori, bordelli e casini, con un suono che spacca la faccia, con un decadimento armonico poi che lo stesso tono ti porta a sentire in un modo micidiale. Ma niente, sono cose che vanno ascoltate, prima di parlare uno deve stare sul chi va là, perché poi si rischiano brutte figure, quindi sono venuti tanti con delle convinzioni extraterrestri e poi gli orecchioni da pipistrello hanno detto che andava molto bene, quindi vedi, non si può parlare così, cioè il controllo di tono, ma stai parlando, io ho capito cosa stai parlando di mondezza. Sì, sì, lo so, tutte le esaltazioni, sporcamento di segnale, di, cioè, di, cioè, migliori segnali elimini, perché aumentando gli acuti automaticamente riduci le altre frequenze, per cui è tutta una cosa. Ma che non c'è problemi di acustica nella stanza, a quel punto usi, ce l'ho la possibilità di farlo nell'altro impianto, dove diciamo un'altra stanzetta, però la sala dove ascolto di lì è libera, con un divano davanti, a distanza giusta, ho le casse orientate, eccetera, eccetera. Di lì non ho niente di nulla. Mentre nell'altra sala dove c'è un impianto con più roba, diciamo, con cose diverse, per fare altre cose diverse, lì c'ho il controllo, c'ho un analizzatore di spettro, con il generato il rumore rosa, e lì per fare equalizzazione dell'ambiente. Però stiamo parlando di altre cose, quella non è alta fredda, quella è una correzione di difetti acustici dell'ambiente. Sì, ma no, andiamo fuori strada. Non andiamo fuori, non si fa niente il discorso, cade lì e basta. Io non sto parlando, vedi, correzione acustica, né di ambiente né di nulla. Io ti sto parlando di un segnale sinusoidale, va bene, musicale, iniettato in un preamplificatore dove ha un percorso allucinante. Lì il suono viene ascoltato. Poi ti ho parlato di un preamplificatore come quello che ho realizzato io, che i percorsi sono molto corti, è fatto tutto cambiato al volo, va bene, con un metodo molto particolare proprio per fare in modo che la purezza del suono venisse fuori come volevo io, e ci sono riuscito perfettamente nell'intento. Perfettamente. Poi naturalmente io posso fare anche chiusi, un unico telaio e con quattro telai dentro, posso fare come voglio in tutte le salse, però questo tipo di finale è stato praticamente la chiave di volta del suono, perché a sentirlo, è spaventosamente bello. Spaventosamente bello, un suono bello, equilibrato, molto dinamico, pulito, potente, allo stesso tempo più tiri più ce n'è, non è quel classico ampia valvole, un classe A che si fa la popò sotto, pieno di così di rumori. Mi ha sentito? Sì, no, ho capito il discorso tuo, giusto e valido. Vabbè, comunque. Per poter di pompa è stato bene, bisogna che uno ha conoscenza, altrimenti un po' come i finali, no? Vanno lineari, invece lavorano e sono vanno a finire. Che cos'è? Tutta monde. Un attimo, ti manda a portare. Infatti un buon finale già c'è, ma lo paghi l'ira di Dio a valvole. Il transistor rimane sempre quello che è, ci sono quegli americani, ma la sorte, che sono bellissimi, ma vai e tocca di 10.000, 50.000 euro, e chi li tocca? Chi ci si avvicina? Nessuno. Perché è un buon ampia valvole, anche RF, va bene. La valvola giusta, la configurazione giusta, la classe di funzionamento giusta, quindi valvola polarizzata correttamente, eccetera, eccetera, ben schermata, ben adattata all'impedenza, eccetera, eccetera. Sono tutti questi fattori. Ma BF è come la RF in fondo. In RF gioca il fatto delle perdite, di flessioni, gioca il fatto della permanenza di impedenza e compagnia bella, ma siamo sempre lì. Bisogna comunque conoscere e sapere dove mettere le mani, altrimenti l'apparato non è fatto. Né BF né RF. E basta, non c'è niente da fare. Perché una volta fatto l'errore poi non puoi correggerlo per strada. Certo, comunque c'era qualcuno, stava modulando, aspetta un attimino, non so se forse non ti sentiva, lo facciamo entrare perché ti scavalcava, ti dava sopra di te, avanti che voleva entrare. Avanti che voleva entrare. No, perché quando stavi parlando ti sovramodulava, gli ho detto a interrompere, perché forse o non ti sentiva o non lo so. In questo momento comunque non c'è nessuno. Riprendi Giovanni. Vediamo un po'. Avanti, vuoi entrare? Beh, vabbè, no, non mi interessa. Se qualcuno che vuole entrare entra, altrimenti non me ne fotte un accidente. Figurati un pochino, non mi danno io per queste cose. Anzi, non me ne sbatte nulla, riprendilo bene. Ma scusami un attimino, una telefonata. Stai no. Lu, a dire. Tanto piacere, dai. Se dammelo quell'indirizzo mail, così ti faccio vedere un po' di roba. Poi se capiti qui, faccio vedere live la storia, non c'è problema. Va bene, per ora buon proseguimento, buon tutto. Ti ascoltiamo tutte le prossime. Buon appetito, se devi cenare, eccetera, eccetera. Cappa, dimmi una cosa, io non in radio, non per te, non lo do in generale, i dati personali preferisco non darne. E ti voglio dire una cosa, il tuo numero di telefono, c'era qualcuno dei nostri conoscenti qua in radio, tipo Claudio, Pomponio, Luca o qualcuno, naturalmente te lo do per telefono. Ma guarda, potresti chiedere a Pinuccio più in là, mi sa che l'aveva anche Claudio, no, le Vulcano ce l'ha anche. Oh, cosa? Torino GBC ce l'ha? No, non credo. No, tu chiedilo a Vulcano, già te lo dà, già, tranquillo, te lo dà, a Pinuccio. Quando capita, all'improvviso glielo chiedi. Pinuccio chi? Pinuccio del mondo? Sì. Vabbè, io non lo conosco, la Luciana Giro di Gigi, non tramite Claudio, me lo faccio dare il numero, non c'è problema. Allora, se poi capiterà di trovarsi da qualche parte, dai, avremo modo di sentirci e vediamo un po' di scambiare le nostre cose. Sì, non c'è problema, ma siccome, allora, lì c'è già un discorso scritto, c'è tutto, come sono stati realizzati, ci sono gli schemi elettrici, c'è quanto esiste, c'è un DRIC, TR4C con frequenzimetro digitale computerizzato, da me progettato e realizzato, software, apparato, eccetera, eccetera, vari tipi di operazioni su qualche radio, praticamente puoi vedere anche quel test match che ti ho detto digitale, tutti i discorsi tecnici, sono lineare anche RF basato sulla G7B molto bella da 1000 watt circa. Niente, dovresti vedere il sito, è più divertente, dai, così ti fai un po' di lettura, visto che sono entrate quasi 11.000 persone a leggere lì dentro, quindi suppongo che sia interessante, visto che dalla Russia, America, Giappone, Francia, Germania hanno fatto capolino, evidentemente la cosa è appassiona. Ma tu c'hai un profilo Facebook pure? No, io Facebook non ne uso, no. Io ho i miei indirizzi statici con ingegneri tecnici, ho il mio forum, però niente, Facebook non esiste per me, non è roba mia, mi spiace, tutto lì. Non c'è problema, capito? Quando avrai il mio telefono mi chiami, ti do l'indirizzo email e ti diverti. Boh, non è che così, te lo sfogli, te lo guardi, te lo giri, fai quello che vuoi. Cappa, una domanda solo per chiudere. Il tuo cognome inizia con la B e finisce con la U o con la O? Con la U. E allora, il tuo cognome già lo conosco. Ok, perfetto. No, però non c'è, non è sotto quel nome lì, Non è sotto quel nome, in effetti per la privacy è stato fatto anche questo. Perché io non gradisco essere telefonato tutte le ore per chiedermi delucidazioni inutili, è tutto scritto nel sito, non voglio sentire niente. Io sono fatto così, Quando scrivo, immagino bene, e uno si interessa il lì, poi giustamente se un amico di Sassari non c'è nessun problema, però se iniziano a chiamarmi con traduttori, rompendomi le palle perché vogliono sapere il test match come è realizzato, se si può fare, se è contratto per scala commerciale, eccetera, succede un casino. Ok, ti lascio andare, dai, buona carica e buon tutto, io l'ho già fatta, rimango qua acceso in radio, nel frattempo mi gioco col computer, dai, gioco qualcosa sul computer, se c'è qualcuno in radio, se no, pazienza, ti saluto, sempre un piacere ascoltarti e farci chiacchierate tecniche, poi se a qualcuno interessa o no sono problemi loro, a me mi ha fatto piacere, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo, carissimo, ciao. Non si capisce quasi niente. Già, mi sta uscendo malissimo, non si capisce quasi niente. Non si capisce, non capisco quello che stai dicendo. c'è tutta la anima. No, non devi gridare già. Se tu gridi non riuscirai mai a usarla quella radio. Devi parlare piano piano, sei tutto strappato. Ok, guarda adesso, sta piano piano. Devi abituare a parlare così, se no ti capiscono. Attacca il processore, vediamo. Cos'è? Il processore devo premere? Lo stacca la vedere. L'ho staccato, Ti ho premuto approccio, però è in fondo, guarda adesso. Ecco, allora, adesso inserito il processore. Se io ho premuto un bottoncino mi sembra inserito. Perfetto, non toccare più niente. Lascia la posizione così, a uno ce l'hai il Michini. Sì, a cacciolo a uno, magari che come lo stavo portando, capito, lo so anche poi, ma anche la colonnina. Era anche così, mi di malumore, perché gli ho preso l'apparato, però è incatenato forte, non lo può piazzare dove abita, mi ha detto. Sono cose che interessano a nessuno, non è quello che hai comprato, né quello che hai deciso. Sei contento tu, va bene così, non ti preoccupare. Allora, sì, ti stavo strappando perché il processore non era inserito. Adesso col processore inserito va benissimo, però non devi toccare il Mickey Gain, Non lascio così, claro, lascio, aspetta, lo vedo, sì, ho quella posizione. L'altro che c'è proprio del Mickey Gain, la potenza, cos'è l'altro grigio qua? Quella è la potenza. A quanto... Guarda che... Allora, il 440 sulla tua sinistra, dove c'è l'accensione power, c'ha praticamente il controllo sia dei watt, dell'LC e delle stazionarie. Dove ce l'hai tu il pulsantino, lo slider, l'interruttore, chiamalo come vuoi, dove ce l'hai al centro? Guarda sullo strumento è abbastanza preciso, c'è tre scale, lo smitter, le LC e le stazionarie con il watt, ok? Guarda a vedere quando schiacci la portante dove va lo strumento e quando parli dove batte. Ok, adesso qua, in quello strumento di centro, sotto, diciamo che sono le stazionarie che non mi interessa perché siamo in PWR. Allora io sto guardando la scala di centro che è in PWR e il canale fate 1,50. Portante muta quanto è? 50 class. E quando parli? Aumenta appena appena altri 2 o 3 watt. Ok, vabbè, l'hai appena acceso, comunque già va bene così. Potresti metterlo anche leggermente a portante fissa, potresti metterlo intorno ai 30 watt, ok, 30 watt di portante fissa e quando parli dovrebbe andare intorno ai 50, capito? Ok, ok, 30 di portante fissa. Adesso quando parlo qua intorno ai 50, come adesso, E lo conosco come le mie tasche perché vuole quello che ci ho io. Tra l'altro quella radio gliel'avevo fatta prendere io, quindi la conosco perfettamente. Allora guarda, se tu ti abitui a trasmettere così 30 watt di portante bianca e 50 modulati, hai una radio che fa paura, perfetta, chiara, fortissima, non strappa, perché con la radio c'è anche una modifica che gli avevo fatto io a quella persona lì, capito? Quindi c'ha l'LC tirato, i watt sono tirati, è regolata da me, perciò non ci sono problemi. È andato benissimo già così, ricordi, processore inserito, una trentina di watt in AM, perché poi quando va in banda laterale le spinge ancora di più. Processore inserito, 30 watt, Mickey Gain a 1, e non sbagli. Perfetto, guarda, mio figlio mi ha detto, mi grande, non fa i baracchini, non, nessuno ne tocca uno, perché i baracchini ce li ho nel cuore, hai capito? Quelli che ciò rimangono, manco uno ne riuscire, i cavalli lo faccio riparare, quella, i baracchini sono la mia vita, hai capito? Li amo, che se c'ho qualcosa era tipo una collezione, clami, io amo molto i baracchini, sono nel cuore, ci metto dentro. voce 9+20, non hai bisogno di amplificatore, non hai bisogno di niente, è quella radio spara che manca non atta. Vedi tu, l'MC60 ce l'hai, c'hai tutto, perciò ottima scelta, hai fatto veramente un grande acquisto, perché quella radio è nuovissima, trattata bene e funziona magnificamente bene. Sì, lo so, e poi ti aiuto in altre cose all'estate, vediamo come hai capito, riesco a fare altra roba, perché è una persona veramente che ammiro e che stimo, purtroppo c'è crisi e però devo riuscire a trovare qualche buco. Ti saluta Giancarlo, ti saluta Clark, come fa Giancarlo quando sta guardando la Sassa di Correnata, ti saluta. Cosa cambiano quando lo vedi? Io mi sento spesso con il bar, ma lui non entra mai in HF, perché è sempre in praticamente fa attività in CW, ho capito, quindi no, non ci sentiamo mai in HF. Però quando capita magari già ci sentiamo, dai, non ci sono problemi. Va bene già, lascialo così allora, ok? Lascialo così, che vai alla grande, benissimo, senza problemi. Ricordati sempre, Mickey Gain, lascialo così com'è, il processore inserito e la potenza intorno ai 30 watt, così è più che sufficiente, perché poi quando parli sale, capito? Quando parli sale, e quindi ti conviene lasciarla fare così, ok? Se non hai bisogno di altro, io spengo, sto guardando un po' di TV e poi me ne vado a nanna, perché domani me ne vado a fare, sì, ok già. Ti ringrazio Claudio per dei consigli che accetto ben volentieri, perché sei, ti ho detto, il numero uno, non ce n'è altro per adesso, hai capito Claudio? Infatti non volevo provare di rientrare, perché poi quando ho chiamato a te era appena arrivato, che avevo smontato quasi alle 6 da lavorare, e niente, poi facendo la spera si è fatto tardi, hai capito, sono stato un po' rubato, ci ho cenato e ho fatto questa roba qui. Ti ringrazio Cla e ci risentiamo presto e ti aspetto a vino nuovo a salvare. Ciao Cla, per il momento buon tutto per domani. Ciao già, buonanotte anche a te famiglia. Ricordati sempre di parlare un po' distante dal microfono, non appiccicato, e con una voce senza gridare, vedrai che nessuno ti può mai dire niente con quella radio. Complimenti, va bene, ci sentiamo domani Gianni, dai, che sono stanco molto.